paradosso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. You in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You are so silly acting all grubby, 'cause you just ain't another girl like me. Plus you ain't worthy of a girl like me. I can do way better than you, risk all glory. Now I'm pulling the chains, so it's flush, out my veins, out the drain. Flush, and I no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that all I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be sore, I think you've been smoking way too much vodka. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, I suggest you just flush. Questa puntata si avvale della super mega galattica co-conduzione di a valle della super mega galattica co-conduzione di niente, ma di Pasquini c'è invece, c'è traccia? Pasquini c'è ma l'ospite non c'è, lo sento, cioè... No, non è l'ospite, è il co-conduttore, l'ospite c'è e non si sente neanche lui però, parla, non... ma solo in preascolto, prova adesso? Io provo. Guarda, c'era il bottoncino nascosto. Vuoi fare di nuovo la presentazione? Tra un po', forse, adesso? Allora resto il co-conduttore misterioso. Che meraviglia, la 121esima puntata di Coxo Spaziale, che aveva provato già la settimana scorsa ad essere, e forse ci riuscirà anche questa volta con tutti e due i microfoni funzionanti e anche Pasquini in collegamento telefonico, è vero? È vero, io confermo. E sentiamo anche dall'altra parte? Pronto, pronto! Anche di là! Ma che meraviglia, ma che meraviglia! Ciao Pasqua, come stai? Dove sei? Cosa fai? Sto bene, sono appena tornato a casa e sono a casa. Ah, ok. Va bene? Tutto qua? Tutto qua. Io oggi devo festeggiare, ma non sono affari vostri, per cui festeggio da solo. Ma il tuo compleanno, no? Anche qua dobbiamo festeggiare. In realtà ho scoperto che ho tolto il mio compleanno da Facebook, per cui lo dico pubblicamente, il mio compleanno è mercoledì prossimo. Sì, che sei sotto le feste te, che ti si dimentica sempre di farti gli auguri, no? Infatti, è un disastro. E invece Max cosa deve festeggiare? Max deve festeggiare che finalmente ha trovato un lavoro. Ma poi chi è Max esattamente? È il super mega galattico co-conduttore del mese di dicembre. Ah, Massimiliano W. Briarava. Ah, cavoli, scusami. Max, Max per i Coxo ascoltatori. Che fra l'altro io ce li ho qua davanti, anche se non ho ancora capito come funzionano. Sono due telefoni e se volete 333 180 94 94. telefonate. Per qualsiasi motivo. Pasc, vuoi lasciarci con una perla di sapere da Bliesco? Sì, senti. Vai. Questo. Vai. La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa. E questo è Nietzsche. Bene. E intanto che ruzzolano le balle di fieno nel deserto. È stato un piacere sentirti e tanti auguri per mercoledì e ci sentiamo forse giovedì prossimo, che è la vigilia di Natale. Ci sarà un coxo speciale. Ci sarà il coxo Natale. C'è un coxo speciale. C'è un coxo nomade. Ma frattanto, Pasqua, fammi un piacere, visto che sei arrivato a casa, sintonizzati un attimo la radio e senti com'è la voce, perché io la sento particolarmente insomma strana. Sì, mandami un messaggino al 333-180-94-94, così mi aiuti ad aggiustare i volumi indifferenti. Ok, allora se scrivo che le scine sono delle gragnocche, vuol dire che si sente bene. Che va tutto bene. Se scrivo radio, aiutaci tu, vuol dire che non va bene. Perfetto, abbiamo il codice. Ciao Pasqua, smetto anche lo stacchetto. Aspetti un attimo. Ecco, fai così. Eccolo qua, lo stacchetto. No, non lo metto, no, perché ma, non ma lo trovo. Ma non metterlo, dai, lo faccio io. L'ho messo. Ciao. L'hai messo. Ciao. Eccoci qua. Eccoci finalmente soli. E adesso cosa facciamo? No, non siamo soli, ci piacerebbe in realtà. Ma siamo tra amici, diciamo. Siamo tra amici resistenti, che esatto. Resistono. Questo era un po' il tema della mesata, io, no? Io il signorino lì di fianco a te l'ho conosciuto che aveva 18-19 anni. E me l'hai anche presentato. Che ne aveva un po' di più. Mm. Adesso quanti ne ha? Quanti ne avrà? Ne dimostra sempre pochi. Sono passati 10 anni. 10 anni, come vola il tempo. Però sì, qualcosa di strano nei microfoni c'è, perché... Provate a parlare un po'. Siamo vicini? Siamo vicini. Beh, infatti lui si sente pochissimo. Comunque il nostro super mega ospite è un doppio identitario, perché io l'ho conosciuto come Enrico Ruscelli, ma in realtà lui è anche qui come Luca Forestani. Dico bene? Sì, precisamente. Come Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Facciamo così. Intanto che sistemiamo un attimo queste cose dei volumi e dei microfoni e capiamo come metterli, io mando un brano che potrebbe servirci anche per entrare nello specifico del tema della trasmissione. Quale mi metto prima? Ma andrei con quello più... Quello di Jean Moreau? Ma sì, quello più breve, certo. Ok. Eccovi Jean Moreau. Jean. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da da da da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da da da da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man. Careful, Corral. With a sword. If you lose your footing, you can sometimes fall very far. Thanks, Inspector. How about it? Throw dice with me. Yeah. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da da da da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da da da, da da da da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. God. Yeah. Yeah. Yeah. E assicuro che i rumori che sentivano non erano colpa mia, era la traccia che veniva da un film. E perché e questo perché, brano? Allora. Cioè, aspettate un attimo, perché è arrivato un WhatsApp. Un WhatsApp che dice. Ecco, dice Fedra Gragnocca. A questo punto che cosa è Pasquini? Che cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo andando benissimo. Ok, ok. Grazie Pasquo. E va bene, facciamo che così abbiamo regolato i volumi. E anche un saluto al vecchio W Paglione, dato che ci siamo. Così. E insomma si trattava di un frammento da Querelle de Brest, l'ultimo film di Fassbinder, in cui la mitica Jeanne Moreau canta Each Man Kills the Thing He Loves, che è un frammento, un brano, dalla ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde. E dunque abbiamo fatto l'unplane. Allora ho capito. Reading Galera. Hai capito tutto, esattamente. Che adesso non è più solo un reading, ma è diventato anche qualcos'altro. Per cui cominciamo con il Luca Forestani che è in Enrico. Il Luca Forestani Show. Yeah. Ciao Luca Forestani. Ciao Fedra Boscaro e ciao Massimiliano W. Briarà. Ciao. Io sono sì Boscaro. Ah sì Boscaro. sì. E allora Luca Forestani è un drammaturgo e uno scrittore, giusto? Lui sì, non va in scena. Sì. No, lui va anche in scena. Va anche in scena. Va anche in scena. Quindi prendi due volte il sussidio Empals. No, beh, una volta sola. Vabbè, dai, non si può tutto dalla vita. Racconta, quando nasce il Forestani che è in te? Quando nasce il Forestani che è in me? Nasce più o meno quando ci siamo conosciuti, quindi quando avevo 18-19 anni. Ma io non ne sapevo niente. Tu lo sapevi già quando l'hai conosciuto che era Forestani anche? No, l'ho saputo anch'io dopo e non me ne capacito ancora oggi, perché come ho già avuto modo di dire, a me Enrico Ruscelli piace di più. Però lascia perdere che anch'io con i tuoi cognomi faccio delle gaffe a volte, però insomma... Guarda, pensa, c'è Aldo Palazzeschi che cambiò nome, non si chiamava Palazzeschi ma si chiamava in un altro modo, perché al tempo suo padre non voleva che lui utilizzasse il nome di famiglia, visto che era di una famiglia bene. Per recitare, perché lui allora faceva l'attore e poi dopo è diventato anche scrittore. Mio padre invece oggi nel 2015 si lamenta del fatto che non usa il suo cognome. Vabbè, ma lo usi quando vai in scena come Geisha ad esempio? No, ma dipende, no? Forse lui, no, ma lui lo rinnega proprio bellamente il suo cognome in scena. Sì in scena come drammaturgo, come attore, sì. Non lo usa mai. Forse lo terrà. Lo usa per l'intimità. Lo terrà per quando cala la scala colore. Può essere. E allora viene fuori dal nulla un Ruscelli. È una schizofrenia intenzionale. Comunque è meravigliosa questa cosa che tuo padre vorrebbe tu usassi il suo cognome per le tue espressioni artistiche. Ad esempio, mia madre è incoccatissima che io stia qui a perseguire orizzonti estetici di dubbia leggibilità e via di ricerca sostanzialmente. Con il suo cognome? No, in realtà è il cognome di mio padre, però vabbè. Comunque, al di là dei cognomi, sì, hai ragione. Eravamo esatto. Fai la Boscaro della situazione. Eravamo dalle parti di Oscar Wilde ed eravamo dalle parti di Fassbinder, anche volendo, ma insomma, di un bel gruppo di personaggini che. Ah, altro messaggino, mi permetti? Ma certo. Poi riprendiamo allora. Un attimo, niente. È interessante? Ho intravisto che praticamente. No, non. Vai pure, che ora che lo ritrovo, perché ho visto che è di Pasquini, che diceva che non era lui. No, Pasquini, anche lui ha questi problemi di identità. Essere ricevuti. Va bene, parliamo con Enrico o con Luca, insomma, con chi dei due vuole parlare di questa avventura. Ce l'hai? Cosa dice Pasquini? Dice: non ero io col messaggio di prima all'altro telefono. E allora grazie per la gnocchitudine a chiunque tu sia. E comunque si sente bene, non c'è il tappeto, come non c'è, noi lo sentiamo, tiro più su, mi spiace ragazzi, ma sia tu che le scine siete delle, delle gragnocche. Ah, okay. E allora va bene, non era lui ma era un altro lui, ok, o una lei, chi lo sa, insomma. Comunque grazie per la gnocchitudine, fa sempre piacere qui. Ma noi gnocchi no, soltanto tu sei gnocca. È, è un gnocco al rosa, oggi, okay. Gnocco rosa. Allora, dicevamo di nuovo, scusatemi, Luca Forestani che ha preso la ballata del carcere di Reading, che se non erro l'ultimo testo scritto da Oscar Wilde, sì, e che tratta del suo periodo di detenzione, del suo periodo di in carcere. Sì, cioè, l'ultimo l'ha scritto in concomitanza con la famosa lettera De Profundis, dedicata appunto, anzi indirizzata a Alfred Douglas, il quale era il suo amante e il figlio dell'uomo che contro il quale aveva perduto la causa di diffamazione e per cui era andato in bancarotta ed era finito i lavori forzati per 4 anni al carcere di Reading, appunto. E in questo carcere appunto scrive questa lunga lettera, molto sentita, molto commossa, ma anche questo poema che non parla della sua esperienza personale, ma dell'esperienza di uno degli uomini, degli altri detenuti che hanno passato il carcere con lui per breve tempo, perché dopo 2 settimane di detenzione questo uomo, questo cavalleggero dell'esercito reale è stato impiccato per uxoricidio. Mm-hmm. Ecco che arriva: ogni uomo uccide la cosa che ama. E infatti, che poi in realtà io ho diversamente tradotto. Ma prima di arrivare eventualmente anche a leggere dei pezzi, perché ti ha attratto questo materiale letterario? Ma cioè, come sei bravo, Max! Ma dai, bravissimo. Ma non è vero. Sono noioso, tu anche sei divertente. Ma no, Pasqua era divertente. Ah. Beh, innanzitutto proprio per rendergli giustizia in qualche modo, perché questo poema, come in realtà tutto il Wild poeta, è sempre stato considerato un poeta piuttosto mediocre, venne messo in risalto un'altra parte del suo lavoro, in particolar modo quella del teatro, mentre invece questo poema, che non sarà una grande novità di stile, una grande innovazione, però è sicuramente un testo molto sentito, ma che poi dopo qualche anno, anzi dopo nel secolo a venire, ovvero nel Novecento, ha dato ispirazione a tanti, in particolar modo a tanti cantautori. Ma perché tradurlo, ritradurlo? Perché quello che tu fai è ritradurlo rispetto alle traduzioni, sì, italiane che già esistono. Sì. Lo hai ritradotto e dunque l'hai in qualche modo tradito o gli hai ridato, cioè il famoso detto, no? Tradurre, sì, sì, tradire. Cos'è? Beh, cos'è questa traduzione? Appunto, penso che comunque in ogni caso l'operazione traduzione sia un tradimento in qualche modo, però quello che ho cercato di non tradire era la restituzione, diciamo, emotiva e formale di quello che era il testo di Wilde. Dicevo appunto prima, rendergli giustizia, perché con le traduzioni precedenti, in particolare ne ho in mente 2 di cui non faccio menzione giustamente, però non gli rendevano giustizia perché gli facevano al contrario una grave violenza, come se non bastasse l'aver fatto 4 anni di lavori forzati, poi mi traduci malissimo. Poi di errori editoriali, adesso questo ne faccio menzione perché è veramente grave, circa le pubblicazioni di Wilde ne sono stati fatti. Uno fra tutti è quello della Salomè di Oscar Wilde, la quale è stata pubblicata da un grosso editore come la Burr, che l'ha pubblicato con il testo inglese a fronte. Ora, qual è il problema? che la Salomè di Wilde è stata scritta da Oscar Wilde in lingua francese, esatto. E chi l'ha tradotta in inglese? L'ha tradotta proprio quella Alfred Douglas, per cui poi lui qualche anno dopo è finito in carcere. E peraltro Wilde si era espresso molto chiaramente. Guarda te cosa mi è andato a scoprire Forestani. Hai capito? Altro che Wikipedia. Altro che Enrico Ruscelli, scusami, che è sempre lì un po' vaporizzato per le nuvole. Luca Forestani. Però, giusto perché tu mi citi la Salomè, sì. E tu hai fatto un'operazione simile a quella di Salomè, Obie Beardsley, che la illustra, no? Con questi disegni fantastici, erotici, crudelissimi. E tu, nella tua traduzione, pubblicata recentemente, dunque disponibile in tutte le librerie, e nello spettacolo stesso che tu porti come attore con poi i musicisti e collaborazioni, c'è l'intervento di una disegnatrice che fa un enorme lavoro di traduzione iconografica del discorso di Wilde, giusto? Sì, infatti io alle presentazioni lo dico sempre che il lavoro di traduzione è stato doppio, nel senso da parte mia che io ho tradotto il testo in inglese e in italiano, e poi da parte sua che ha tradotto in realtà il testo italiano, perché ha usato la mia traduzione per illustrare, però ha tradotto le parole in immagini. Lei è Lucrezia Buganei, in arte Lucrece, che peraltro io ho scelto apposta perché i suoi disegni mi ricordavano in particolar modo lo stile appunto di Aubrey Beardsley, che aveva illustrato la Salomè e che era, diciamo, l'illustratore di predilezione dello stesso Oscar Wilde. Ma che dici, Fedra? Proviamo a ascoltare un po' di questa Salomè o è ancora troppo presto? No, direi che potremmo esserci. Perché ti ho portato proprio da Strauss, da Richard Strauss, il finale. Sapete, conoscete tutti la storia di Salomè, no? Che si innamora del Battista e che farebbe qualunque cosa pur di baciare la sua bocca, che lui gli nega. E allora, per poterla baciare, non gli resta che distaccarla dal corpo, questa testa. Qui che versione abbiamo? E qui abbiamo il finale dell'opera di Richard Strauss, La Salomè, in cui la nostra eroina canta nella disperazione, tenendo tra le braccia questa testa mozzata, canta Ich habe deine Mund geküsst, cioè io ho baciato la tua bocca, poco prima di essere uccisa dal padre, Erode. Oggi Fedra è innamorata. Stavamo riascoltando Jean Moroder. In effetti un pochino sì. Oggi è un po' innamorata Fedra. Poi parliamo di Fedra innamorata nel prossimo intervento. Che sia questa? Ma speriamo. Ah, però è lunghissima, dovremmo tagliarla. La taglieremo. A proposito, se va bene la musica di sottofondo, Pasquini manda un messaggio. Mein Pasquini. Coxo Sacrale. Eccoci. Eccoci, non siamo su Radio 3, ma siamo su Radio Città Fujiko. Anche se lo spessore dell'ospite, dei contributi filologici che ci vengono portati dal drammaturgo autore di stasera. E anche musicalmente ci siamo piuttosto spinti. E a me dispiace, ma devo tenere alto il sottofondo musicale, perché sennò Pasquini non sente il tappeto sonoro. Eh no, è giusto che lui senta il tappeto sonoro, okay. Sennò mentre a te non è tornato vola. Il super subwoofer, e quindi devo riabbassare i volumi. Allora, bene. Siamo qua con Enrico Ruscelli, altrimenti detto Luca Forestani. Abbiamo discusso di Reading Galera, questo testo che lui ha scritto e che interpreta in scena e che è disponibile, se non sbaglio, forse in qualche libreria in particolare si può trovare? Si può trovare in tutte le librerie, quasi certamente lo trovate nella libreria per ragazzi che sta in sotto Palazzo Renzo, perché è illustrato benissimo da? Veramente, da Lucrezia Bugané. In arte? Lucrezia. E adesso, scusatemi, ma prendo un attimo le redini del timing, anche perché lo sai che cosa c'è adesso, mio coco conduttore mensile? Posso dirlo? Lo dici tu o mando il jingle direttamente? Diciamolo tutti e due, sia il jingle che io. Le menzioni! L'angolo della menzione. Ma che bravo, allora vai tu? Certamente, stasera alle ore 21. E io ci vado. E forse ci vado anch'io. Di natura violenta, ad Atelier, sì, in via San Vitale. L'ultima replica del lavoro creato da Cosmesi durante la residenza allo Spazio Sì da gennaio a ottobre 2015. Si tratta di uno spettacolo teatrale che, come leggiamo, avanza su coordinate orizzontali che sono voci e parole, sovrapposizioni e stratificazioni dove l'immagine è ridotta all'osso perché è dell'isolamento che intendiamo parlare. E abbiamo in linea niente proprio di meno che Eva Geatti per approfondire un po' di più i temi che agiscono all'interno di questo lavoro. Ci sei ancora, Eva? Dimmi di sì. Sì, ciao. Ciao, buonasera. Benvenuta a Coxo Spaziale. Ciao Eva. Ciao. Cosa? Allora, tu sei una delle fondatrici di Cosmesi, giusto? Sì, siamo io e Nicola Toffini. In realtà per noi hanno sempre gravitato amici e artisti, quindi sono la cofondatrice, ma in realtà siamo una rete ben più grossa. Benissimo. E in realtà io vi conosco da tanti anni, quindi effettivamente siete una realtà anche abbastanza spessa, che nasce proprio qui a Bologna, giusto? Pronto? Ah, cavoli, è caduta la linea. Allora facciamo che... Cosa facciamo? La richiamiamo? La provo a richiamare in coda, intanto... Ne facciamo un'altra menzione? Facciamo un'altra menzioncina? Anzi, la fai tu con calma, ti do lo stacchetto e io provo a richiamarla al volo. Va bene. Allora, venerdì 18 con replica sabato 19 alle ore 20:30, Docile, Prometeo, poesia, al DOM, la Cupola del Pilastro. Il terzo quadro del Prometeo, realizzato con un quintetto di giovanissimi danzatori, dalla danzatrice e coreografa Simona Bertozzi. Lo spettacolo sarà introdotto dall'incontro, dall'esercizio del gesto al fraseggio coreografico verso l'immagine, condotto da Enrico Pitozzi e dall'autrice. Vediamo se riusciamo a metterci in linea con Eva. Ecco, mi dicono falla lunga. Potremmo, ce l'abbiamo fatta? Sì, fantastico. Eva è tornata. Sono tornata, scusatemi, ma in teatro per fortuna non prende. Ma che bello, bellissimo. Non si pone il problema di spegnete i vostri cellulari. No, si pone comunque, però almeno magari, esatto, non c'è la telefonata, no, ti stiamo aspettando all'aperitivo. No, dicevo appunto che... Allora, riprendiamo le fila. Questo lavoro a me interessa un sacco il tema, che è l'isolamento. Il tema è l'isolamento, perché in realtà partiamo da questo presupposto. Io e Nicola abbiamo una fascinazione storica per la natura. In realtà siamo coscienti che non è un elemento esistente, e quindi nel senso che è un frangente, cioè un'idea culturale quella che abbiamo di natura. E gioco forza, mi viene da dire, scusa. Esatto, no, banalità. L'unica cosa che riusciamo a percepire ancora come naturale rispetto ai discorsi che ci siamo fatti, soprattutto appunto con Nicola, era questa volontà di isolamento. C'è una piccolissima scheggia dentro di noi che è il naturale, si percepisce raramente, non ha niente a che fare con l'idea di natura, ma più con qualcosa di oscuro e di lontano, e una voglia di andarsene. Quindi abbiamo incontrato queste due figure che sono Thoreau e Kaczynski, con cui ci siamo abbastanza confrontati sulle letture, ci hanno ispirato moltissimo, e dai loro testi abbiamo alla fine fatto uscire questo spettacolo. E quindi questa sera alle 9 l'ultima replica bolognese dello spettacolo, che poi in realtà debutterà a Dro, giusto? Ha già debuttato a Dro. Oh, cavoli. Sì. Il 1 agosto abbiamo debuttato a Dro e questo è il debutto bolognese, insomma. E adesso speriamo una replica, insomma, abbiamo un po' di cose in atto, speriamo che vadano tutte in porto. Non vedo l'ora di essere lì con voi col mio telefono spento a godermi l'esito di questi attraversamenti. Grazie, Eva. Ne parliamo dopo anche allora. Va bene. Grazie a voi. Grazie. Scusatemi. Grazie, Eva. Ciao. Non si dice merda? Diciamolo mo. Dice merda, Eva, tanta merda. Vabbè, che ne avrà già avuta tra i debutti e cose. Adesso che non c'è più la telefonica, rialzo il sottofondo, mi dispiace. Dobbiamo. Però siete stati bravissimi. Adesso ci manca ancora un paio di menzioni e poi possiamo riprendere i nostri temi. Certo. Vado con la terza? Sì, con la voce portata. Hai capito? Da sabato 19 a domenica 20, io dovrei farlo tutte le volte questo. Mi vuoi chiamare tutte le volte per fare solo le menzioni? Ti va? Sì, volentierissimo, perché è proprio la mia natura. La tua natura, è la tua scheggia di natura. La mia scheggia di natura, fare le menzioni. Da sabato 19 a domenica 20, Santa Gem 3, Desiderium, al TPO. Per la terza volta, CIBO, Contact Improvisation Bologna, organizza la Santa Gem, un'occasione per condividere desideri e danzare insieme ai contactari e Federa ne sa qualcosa, che arrivano da tutto lo stivale e forse anche oltre. Se volete saperne di più c'è www.contactinfo. Vabbè, quello lo vedete, eccetera, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, che troverete aggiornato anche con il file della puntata di 2 settimane fa. Trascendiamo quella della settimana scorsa e va bene. E quindi io a questo punto, dette anche queste ultime novità, staccheggio. Staccheggia. Abbiamo un'altra menzione che però la facciamo introdurre da un brano che sono 3 settimane che provo a mettere. Possiamo andare con... Non dirmi che sarà Bjork. No? Niente, me lo lasci lì. Preferisci Enrico Farnedi? No, Bjork va benissimo. È tanto, mi piace tanto. Ok, perché poi quell'altra ce la teniamo per la fine. Sono 3 settimane che la sentiamo e non riesce a metterla in onda. Cioè, come fa lei veramente? Dovevo arrivare a questo punto prima di sfumare perché il tempo coxofonico è tiranno. Bjork alle volte. Ci sta, sai, ci sta, bisogna abbiamo anche qua Enrico che era in brodo di giuggiole ascoltando questo pezzo. E abbiamo il nostro che lo riabbasserò perché vai con la menzione che poi sono c'ho. Aperte le iscrizioni al concorso Matrimonio all'Italiana Art Contest dalla collaborazione tra Nosadella 2 e Home Movies nell'ambito di Gender Bender 2015 nasce un contest sul tema del rito del matrimonio. Il contest si propone di interrogare immagini d'archivio delle numerose pellicole su matrimoni italiani girate dagli anni 20 agli anni 80 che Home Movies metterà a disposizione. E per saperne di più abbiamo in linea niente po' di meno che Elisa Del Prete di Nosadella 2. Ci sei? Eccola! Ci sono. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Allora, io provo ad allontanarmi, lascio a voi la parola perché il mio microfono gracchia tantissimo col telefono. Allora, volevamo sapere di che cosa si tratta esattamente questo progetto che insomma mi sembra molto interessante. Ma si tratta di film o si tratta di, cioè, di film famosi sui matrimoni o di no, vero? Adesso ci dice tutto Elisa. Ah, ok. Sì, si tratta di non di film famosi perché sono film di famiglia dell'archivio Home Movies, quindi di film amatoriali girati da famiglie, come a molti probabilmente capita di registrare i propri matrimoni. Certo. Dagli anni 20 agli anni 80 e tratta di numerosissime pellicole che sono raccolte in questi fondi di Home Movies e che abbiamo pensato di mettere a disposizione di giovani artisti, scrittori, musicisti, filmmaker, chiunque abbia voglia di reinterpretare questo tema a partire da queste immagini. Quindi non si tratta tanto di lavorare, di fare un film a tutti i costi, diciamo, di rielaborazione di questi materiali, ma di farsi ispirare da questo immaginario che si è depositato nella nostra storia italiana. E infatti, scorrendo le indicazioni che si possono trovare sui siti sia di Nosadella 2 che di Home Movies riguardo al contest, ho visto che il vostro siete completamente aperti a qualsiasi tipo di format, giusto? Giusto, sì. Siamo aperti a qualsiasi format, siamo curiosi anche di sapere che cosa ci vedono le persone dentro a questi materiali, tant'è che sul nostro sito e anche su Home Movies ci sono dei link a dei pezzi che abbiamo estrapolato da questi video, che sono film, a disposizione appunto delle persone che vogliono partecipare. E dunque ci sarà un vincitore? Ci sarà uno o più vincitori a seconda delle idee che arrivano, ci piace rimanere aperti a più possibilità e quello che mettiamo a disposizione è proprio la produzione, che è il nostro lavoro nel cercare di produrre l'opera o quello che insomma, ci viene proposto e fino dove riusciamo ad arrivare. Per cui quello che chiediamo, la scadenza è l'11 gennaio, quello che chiediamo è di inviarci una proposta di cui noi poi valutiamo, oltre che la qualità e l'interesse, e la possibilità di cimentarci proprio nella produzione. Certamente. E allora sarà una bella occasione per cimentarsi, magari ci sentiamo prossimamente per sapere un po' di anticipazioni su chi ha vinto e che cosa verrà realizzato, va bene Elisa? Va bene, volentieri. Ti ringrazio, a presto, buona serata. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao. E da domani su www.coxospaziale.blogspot.com nella sezione menzioni link per andare ad approfondire questo contest, vedere i materiali e lasciarsi ispirare. Che magari ci viene voglia di sposarci. Ma è interessante questa cosa perché... Perché noi dovevamo fare un figlio. Sì, ma questo non vuol dire sposarsi, credo, sì. O sì? Ma Dio, se dobbiamo farla, facciamola bene, no? Ah, vabbè, comunque, perché stavo giusto per dire che a questo punto potrebbe essere il nostro caso, che pare che a sposarsi siano solo le coppie gay che vogliono sposarsi, che quelle etero proprio non gliene può fregare di meno. Però tu prima dicevi che ti eri un po' innamorata, vogliamo parlare di questo? No, ma io non ho niente contro il matrimonio, anche perché mia madre non si è sposata, e quindi, cioè, si è sposata solo quando ha trovato trovato il suo vero amore e io sono stato un po' un incidente di percorso, però faremo una puntata sui segreti di Coxo Spaziale. Ah, qua ci vuole. Ma c'hai i volumi strani stasera, sto mix. Guarda che non mi trovo, non mi trovo. Si è capito che non mi trovo? No, secondo me un po' si è capito, un po' si è percepito. No, che sono rimasta ancora un po' in Francia, non so. Ma aspetta, che qua è tutto altissimo, non si capisce, non si capisce. Ebbene. Ma possiamo parlare ancora un pochino con Enrico, Luca, insomma, con questo. Ma guarda, abbiamo ben 5 minuti ed è arrivato anche un altro messaggio. Molto bene, brava e gnocca. Beh, insomma, è fantasioso, eh? Ma che sia Pasquini, sì, questo è Pasquini, dai. Invece vediamo se è arrivato qualcosa dall'altra parte. Ne è arrivato un altro. Ma è il puntatone dei messaggi. E questo dice: ciao Pasquini, ciao Fedra, vi sento belli, buon proseguimento, Raio. Ma non capisco perché mi chiamano Pasquini. Ma perché forse Raio ancora non lo sa, adesso glielo spieghiamo un attimo. Caro Raio, Pasquini c'è nell'anima e nell'aura, ma in realtà da qui a non si sa bene quando sarà solo in collegamento telefonico e io di mese in mese avrò dei coxo conduttori occasionali e mensili. E quello di questo mese è niente po' di meno che Massimiliano W. Briarava. Ma non devi metterla adesso. Il piatto. Il piatto va messo. Il piatto. Non adesso. No, quando? Quando dici W? No, dopo Briarava va. Massimiliano W. Briarava. Niente, non c'è modo. Non c'è modo. È partito Bach. È impazzita, è innamorata. No, allora, dai. È partito Bach e dunque è partito anche. Allora lo faccio andare. Ma no, adesso parliamo del perché. Del perché. Lo lascio andare, allora tolgo questo sottofondo e metto questo. Va bene, mettiamo Bach. Dai, che così parliamo. Anticipiamo i tempi. Certo, 5 minuti, vai. Fantastico. Perché adesso è il turno di Enrico Ruscelli. Che ci parla di un'altra sua drammaturgia, quella più esplosiva, il porno teo splatter. Che è il sottotitolo di Sakura Falls. Adesso tocca a te, Enrico, perché è una cosa talmente complicata. Che questo sì che lo sapevo già quando avevo ci siamo nella scuola, insomma. Sì? Cos'è questo Sakura Falls? In 5 minuti, vai! Allora, in 5 minuti Sakura Falls è, dopo lunghe discussioni, siamo pervenuti proprio con Massimiliano W. Briarava. Che è diventato il regista Deus, esatto. Deus Ex Machina, come si dice? C'è del clientelismo qua, a quanto pare, eh? A definirlo un melodramma, cioè banalmente c'è una donna contesa da due uomini e sullo sfondo di questo triangolo amoroso un popolo oppresso che combatte per la sua riscossa sociale. Era questo il significato? Perché ho visto tutta un'altra cosa. Questo diciamo è il teatro contemporaneo, bella. Ma guarda la stratificazione di livelli narrativi, ma guarda un po'. Come parla bene questa ragazza, si vede che ha studiato. Moshi, moshi. Cioè, questo diciamo che è la base del melodramma ottocentesco. Ma, la peculiarità di questo testo, al di là del fatto che, io non voglio fare troppi spoiler, però al di là del fatto che questa donna contesa in realtà... No, quella non farlo. No, non si dice. Fagli altri. Vabbè, allora... È speciale. Tutta la particolarità di questo testo è il fatto di essere scritto in questo linguaggio molto particolare che abbiamo chiamato d'esperanto, perché è proprio il contrario dell'esperanto, che vuole essere una lingua che ci unisce. Questa è proprio una lingua che vuole essere disgiuntiva, è una lingua che raccatta ciò che rimane, esatto, è la discarica linguistica di tutte le lingue ed emotiva. Quante lingue? Una ventina circa. Però quando lo riprendiamo poi Sakura's Falls lo facciamo con una quarantina di comparsine dannati, che veramente facciamo sta scenografia di corpi di cui mi hai parlato 15 anni fa. E tu cosa fai, Fedra? Io faccio la coreografa. Ah, io volevo vederti come demone. Ci sono anche i demoni, non ci sono soltanto il popolo oppresso. Questo Bach. Io voglio fare il regista. Potrebbe essere un'idea, effettivamente. Questo Bach, che abbiamo sentito, secondo movimento del quinto concerto per clavicembalo, è il segno dell'incantesimo che il regista, perché oltre ad essere un melodramma è anche un metamelodramma, giusto? Perché è uno spettacolo teatrale che si svolge in scena, ovvero sia che parla della elaborazione di uno spettacolo teatrale, pirandellianamente, diciamo, per farla breve, e l'incantesimo che il regista adotta per avere il, come dire, la supremazia sopra il popolo e tutti è appunto questo suono, questo clavicembalo ipnotico di Bach. E invece questo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, è il segno che anche la 121esima puntata di Coxo Spaziale è finita, sta finendo, siamo giunti ai saluti. Ciao. E no, c'è anche questo volendo, che non lo sentiamo da un pezzo. Che cos'è? Paesaggi spaventosi. Anche perché, siccome durante abbiamo avuto Sono innamorato, ho fatto le cose strane, insomma, mi sono rimasta indietro di un 2 minuti di Lolly, che quindi verrà a chiudere la 121esima puntata di Coxo Spaziale, che ha avuto il super mega galattico co-conduttore Massimiliano W. Briarava. Ce l'hai fatta. Quello bravo. Con la B, quello, il cognome con la B. E il super mega doppio ospite, coxico, molto coxico, Luca Forestani prima, e stavamo per avere anche Enrico Ruscelli, che però c'è stato poco. È svenuto fuori. È svenuto fuori. E allora noi ci salutiamo. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i riferimenti agli eventi di cui abbiamo parlato nelle menzioni, e anche dei progetti degli entrambi Ruscelli e Forestani. Anche le foto per vederci bene in faccia, questi gragnocchi che siamo. Eppure il link per scaricare la trasmissione. Certo, dalla trincea dello studio di Radio Città Fujiko, dove oggi è successo abbastanza di tutto, oserei dire, no? Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Va bene, io sono rimasta fuori di un... mettiamoci questo, dai. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Enrico saluta bene. Ciao, buonasera a tutti. E adesso tutti di corsa a vedere Cosmesi, di Natura Violenta. Creatività generica. I 2 minuti di Lolly hanno una durata percepita variabile. E vai avanti. Allora, durante il tempo del comunismo. Plastica riciclata. Funziona. Funziona. Funziona. Così, stando anche leggermente larghi. Sabato! Il 3 ottobre, solo nel 2024. 25, 24. Claudio perde l'1,67%. E Antonella? Prima, meno 1,7% in questo momento. Per il momento. Del disagio mentale. Giornata ancora difficile. Il professor è... Sì. Allora. 990. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Sergio, vaya. Muy bien, sí. Parece que. Che ne dici di 100? Al. Facciamo 150? Eccolo qui. Funziona. Funziona. Funziona. Facciamo 150? Va bene 150. È andata. Grazie. Se io fossi stato nel 1976. Quanto è? 490. Per. 300, 600, 1200. Giornata ancora difficile. Bentornati. In questo momento. Per il momento. Mi piace. Funziona. Funziona. Funziona. È incredibile. E. Piano, perché il cioccolato è molto fragile, essendo così. Mercio, mi raccomando. E Antonella, illegalmente. Io sono Dario De Summa e sta ascoltando Coxo Spaziale.